l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il viaggio settimanale che Radio 24 vi propone per portarvi in Europa. Andiamo alla scoperta di un'altra Europa, quella fatta dalle storie, dalle persone, anche dalle ricadute che insomma alcune scelte politiche o alcune situazioni politiche possono avere nel nostro quotidiano. Oggi tra l'altro faremo un bel viaggio e tra l'altro siamo in diretta, vi diamo la possibilità di iscriverci. Perché? Perché nella seconda parte della puntata andremo in Lituania ed Estonia, lo faremo a modo nostro perché abbiamo due ospiti molto particolari. Se però avete domande curiose o bizzarre, insomma avete cose che volete sapere su Lituania ed Estonia, potete sfruttarci, siamo qua, potete iniziare a scriverci via SMS al 349-238-6666. Ma oggi partiamo dal Belgio, perché? Perché ci sono state le elezioni in Belgio, ne è uscito un Belgio assolutamente separato, diviso in due, perché il partito nazionalista ha vinto nelle Fiandre, mentre in Vallonia si sono affermati i socialisti. Si è letto tanto sui quotidiani di queste elezioni e siccome siamo curiosi e vogliamo capire dal basso cosa sta succedendo, abbiamo convocato una radio partner di Euronet, che è la rete di radio europea a cui anche noi di Radio 24 apparteniamo e partecipiamo, e quindi abbiamo convocato Isabelle Palmitessa, giornalista della radio televisione belga. Ciao Isabelle. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, grazie. Ti abbiamo svegliato all'alba per essere qua con noi, no? Sei abituata? All'alba no, mi sveglio molto presto la mattina. Ma oggi lavori o sei in pausa? No, sono a casa, sono in pausa. Ogni tanto lavoro il sabato, ma oggi no. Ma Isabelle, visto che ci piace anche curiosare un po' nei fatti altrui, c'è una colazione tipica in Belgio? In Belgio tutti non mangiano la stessa cosa come in tutti i paesi, ma diciamo che siccome siamo tra la Francia e il nord dell'Europa, abbiamo una buona colazione. Fa freddo qui l'inverno, dunque si deve mangiare bene la mattina. Che mangiamo? Pane, burro, confettura, quel cioccolato che si sprema sul pane, sì, non so quello, sì, sì, lo conosciamo molto bene, sì, esatto. Poi formaggio, un caffè tipo tedesco, non quello caffè italiano. E un succo d'arancia, non so, ognuno mangia quello che vuole. Certo, una colazione impegnativa. Però forse ho già sbagliato la prima domanda. Si può ancora parlare di Belgio? Cosa sta succedendo? Belgio penso che si sta evaporando, così dico. No, esiste il Belgio e penso che deve esistere ancora per molto, ma è vero che è diviso oggi con quelle elezioni, che si aspettava di avere un Belgio diviso, perché diviso lo è da tanti anni. Abbiamo due entità, si può dire così? Sì, va benissimo. Come perché abbiamo due lingue, due realtà, due televisioni, due comunità che non hanno molta comunicazione. Quindi ci sono proprio pochi punti di contatto e poche contaminazioni anche nella quotidianità, nel senso nella quotidianità si vive proprio questa divisione. Si vive, penso che i fiamminghi e i valloni si incontrano di più a Bruxelles, perché sono tanti ad andare la mattina a lavorare a Bruxelles. Dunque negli uffici si vedono, ma ognuno parla la sua lingua. E poi, no, non è vero quello che dico. I fiamminghi spesso fanno lo sforzo di parlare francese, sì. Invece i francofoni hanno un po' difficoltà a parlare il fiammingo. Dunque questo è uno dei punti di divisione nel paese. Ascolta Isabel, ma queste elezioni hanno fatto più rumore all'estero o anche in Belgio? Nel senso, la popolazione ne parla, è spaventata, è impaurita o è felice anche? Perché quali sono le sensazioni appunto della strada? Ma le sensazioni non sono uguali in tutto il Belgio. Per esempio nella parte francofona è vero che le persone hanno paura di quello che deve accadere, invece al nord penso che sono tanti a essere felici di quel risultato, perché 30% degli elettori hanno scelto un partito autonomista, separatista, e dunque è chiaro, penso che non sono tanti a volere la scomparsa del Belgio, ma vogliono, parlo della parte fiamminga, vogliono un paese con più competenze alle regioni, un confederalismo tipo, certo, tipo americano. Certo. Isabel, rimani lì, nella tua radio ci sono le informazioni del traffico? Sì, certo. Come si chiamano? Infotrafic. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, siamo sempre in Belgio, con noi Isabel Palmitessa, giornalista della radio televisione belga, partner di Euronet, l'abbiamo convocata per parlare del Belgio. Isabel, ci puoi fare anche un ritratto di queste due, di questi due personaggi che sono poi i protagonisti della scena politica attuale, perché nella nostra televisione, sui nostri giornali, insomma, sono arrivati un po' di ritratti dei due e insomma sono due personaggi curiosi. Il primo è l'indipendentista Bart De Wever, l'ho pronunciato bene? Sì, l'hai pronunciato bene. Okay. Non so se hai già visto una foto di Bart De Wever. L'hai visto? L'ho vista la foto, sì. Adesso al di là delle idee politiche, non trasmette proprio subito simpatia. È vero, fa un po' paura perché è diciamo imposante, per non dire un'altra parola, ha degli occhi severi, ma invece sai che è un personaggio molto carismatico, perché ha un senso dell'umorismo veramente bravo per fare delle barzellette. Sì, no, infatti da ridere, tipo inglese, sai? Cioè, ha un'ironia molto molto ficcante, molto molto veloce, ha la risposta pronta da quello che ho letto. È un uomo molto intelligente, storico di formazione, è molto appassionato di latino, di Giulio Cesare. Tra l'altro è vero che ha partecipato anche a un quiz sulla cultura fiamminga e ha vinto un sacco di puntate in televisione? Sì, è andato in finale, si chiama Ter Slimste Mens Ter Wereld, vuol dire l'uomo più intelligente del mondo. È andato quasi in finale, okay. E dunque quello ha fatto anche che è diventato molto popolare. È un modo di parlare alla gente molto semplice. La stampa fiamminga lo paragona spesso a Berlusconi per quello. Quindi una persona, un comunicatore, una persona che sa trasmettere i propri concetti, arriva veloce al popolo. Mentre il leader socialista, che potrebbe essere anche il probabile nuovo premier, se da quello che ho letto, dimmi se sbaglio. No, non sbagli. Elio Di Rupo, origini abruzzesi. Ecco, il sindaco della città dove vivo, Mons, è il presidente del Partito Socialista, è un personaggio tutto, come si dice, all'inverso di Bart De Wever. Ok. È elegante, ha sempre il nodo a farfalla. Sì, ok. Si dice. Sì, sì. Il nodo, sì, alla farfalla o la cravatta, insomma, è sempre appunto elegante, un uomo tutto d'un pezzo, è un uomo simpatico o serioso? No, è simpatico, sorridente, e poi anche lui è un personaggio molto intelligente, è dottore in chimica, va benissimo, sì. E poi è anche lui un seduttore, perché sa come parlare alla gente, dire le cose che vogliono sentire, dunque, ma ha delle idee completamente diverse di quelle di Bart De Wever, dunque le persone si stanno chiedendo qui come devono fare quei due a fare un governo. sarà un matrimonio strano, ma lo seguiremo questo matrimonio, quindi magari Isabelle ci ritroveremo all'altra Europa nelle prossime puntate, così insomma ci tieni aggiornati su quello che sta accadendo, ok? D'accordo. Grazie davvero, ma la colazione l'hai già fatta? Sì, va bene. Ok, buon sabato allora. Ciao Isabel, grazie davvero. L'altra Europa. Ciao. Europost-it. un festival vecchio ma per un pubblico giovane. È il Roskilde Festival, un appuntamento storico con la musica rock che si tiene da 40 anni nel nord Europa e precisamente a Roskilde, un piccolo fiordo danese a 35 km di distanza da Copenaghen. Dal 1 al 4 luglio, 4 giorni di musica con oltre 100 artisti, tra i quali Prince, Gorillaz, Vampire Weekend e King of Convenience. Il motivo in più per andarci? Da sempre gli utili raccolti dai biglietti vengono devoluti in beneficenza. Tutte le informazioni su roskilde-festival.dk. L'altra Europa. L'altra Europa, siamo in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Potete fare recensioni europee a tutto tondo, se magari siete appena tornati da un viaggio e volete segnalarci qualcosa di bello, di curioso, di interessante, siamo qua, ci farebbe piacere essere vostri megafoni. Oggi però andremo anche in Estonia e Lituania, lo faremo a modo nostro, quindi se avete chicche, se avete curiosità, se avete richieste di informazioni, potete usarci, ci mettiamo a vostra disposizione. Prima però parliamo di un progetto europeo di giornalismo partecipativo. Questo progetto si chiama citylab.tv. La cosa bella l'abbiamo scelto di parlarne oggi perché il partner italiano di questa iniziativa è l'associazione Ilaria Alpi. Proprio oggi si conclude il premio di giornalismo Ilaria Alpi e proprio in occasione della conclusione del premio viene presentato questo progetto a Riccione, un progetto di giornalismo dal basso, quindi realizzato dai cittadini e realizzato dall'associazione Ilaria Alpi in collaborazione con Agora Vox Francia, un progetto che ha permesso di raccontare le province, di raccontare le periferie francesi e le periferie italiane, di farlo attraverso dei video, attraverso quindi il racconto della quotidianità di queste periferie in varie città italiane, in varie città francesi. Abbiamo convocato la documentarista italiana che ha seguito i video in Francia, a Parigi, e diamo il benvenuto a Francesca Contento. Ciao Francesca. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Molto bene, tu? Bene, grazie. Francesca, tu sei una regista, vivi a Parigi? Sì, vivo a Parigi ormai da circa 3 anni, però ormai sono lontana dall'Italia, da 4, perché ho vissuto poi anche in Inghilterra. Come mai che hai scelto Parigi? Ho scelto Parigi perché volevo avere un'esperienza europea per quanto riguarda sia il cinema che la TV. Dopo l'esperienza inglese volevo avere di più per quanto riguarda il livello tecnico lavorativo europeo. Per questo Parigi comunque. Francesca, tu collabori con Agora Vox, che è questa, è un sito di giornalismo partecipativo molto diffuso in Francia. Credo che sia il secondo portale più letto, vero? Su esatto, esatto. Uno è il secondo, ci sono più di 1 milione di lettori che leggono Agora Vox, perché è in continua comunque evoluzione, dove le informazioni non sono redatte solamente da giornalisti, ma anche da persone che in varie parti dell'Italia o anche della Francia comunque inviano delle informazioni che molte volte a causa della censura purtroppo non vengono riportate. Parleremo presto di questo sito perché insomma ha calamitato la nostra attenzione, ma entriamo nel tuo lavoro, nei tuoi documentari. Abbiamo estratto qualche secondo dai 12 video che hai fatto, lo facciamo ascoltare per entrare nel clima appunto del tuo lavoro. Più di tolleranza vis-à-vis des immigrés, parce que dans ce pays-ci, les immigrés qui travaillent ici pouvaient s'arrêter une heure de temps. L'immigrazione l'abbiamo sentita citare lungo questa intervista ed è uno dei temi che tu hai toccato, ma non solo. Raccontaci cosa significa far vedere la periferia. Ma principalmente questo lo possiamo identificare come un viaggio, quindi ci sono varie fermate. Abbiamo deciso di affrontare 4 temi importanti. Il primo era quello della casa, quindi anche rappresentare il rapporto che intercorre tra la metropoli e la periferia. come la metropoli non può vivere senza la periferia e viceversa, come la periferia cambia e anche come il comportamento dell'uomo cambia quando lo spazio gli pone delle regole anche più rigide e restrittive. Quindi ho cercato di rappresentare una periferia più ricca dove si trova un francese che appartiene all'alta borghesia che cerca comunque di fuggire dallo stress urbano. Quindi anche visivamente si possono vedere queste villette bifamiliari con questi giardini, questi viali alberati dove ci sono molte botteghe francesi, le persone di solito utilizzano soprattutto la bicicletta o l'autobus, quindi proprio i ritmi sono molto diversi da quelli di Parigi. Poi abbiamo la seconda tappa che in questo caso abbiamo affrontato il lavoro e anche l'immigrazione, per questo ho deciso di incontrare dei clandestini. Sono andata nel centro di accoglienza che si trova a Parigi, dove ci sono moltissimi clandestini, soprattutto provenienti dall'Africa. Una di queste persone che ho incontrato si chiama Bangura, lei è una veterinaria. Aveva una clinica in Africa, in sì? Guinea, che è praticamente un'ex colonia francese. Lei un giorno purtroppo scopre di avere una rara malattia ed è costretta ad abbandonare la Guinea perché la Guinea non ha l'elettricità e lei senza questo macchinario non poteva sopravvivere. Così arriva a Parigi e si trova di fronte a una realtà ancora più dura perché la sua malattia non è riconosciuta nel governo francese e quindi lei non può ricevere la famosa carta, la visa che le permette di essere un cittadino francese, sì. Quindi diventa una clandestina, una cosiddetta, uno dei tanti fantasmi che cammina per la città. Quindi lei sopravvive grazie alle associazioni umanitarie e anche a questo centro di immigrazione. La cosa stupefacente di questa donna è che ha dei grandi desideri, quello non solo di imparare a utilizzare questo strumento che le permetterà di sopravvivere, ma anche perché lei comunque è un medico e vuole continuare a aiutare i malati come lei. E poi la sua seconda speranza è quello che si dia più dignità a questi clandestini, perché contribuiscono notevolmente all'economia di un paese. Assolutamente. E molte volte questo viene dimenticato. Sì, infatti. Insomma, una storia molto bella, tante storie molto belle. Diamo il sito intanto per poterle ammirare, vedere, che è www.citylab.tv. Una domanda, Francesca, in chiusura. Avete trovato più punti di contatto o più diversità raccontando le periferie italiane da quelle francesi? Ma essenzialmente credo che abbiamo trovato sia punti di contatto dove c'è un confronto, credo, un positivo, ma anche diversità, perché soprattutto per l'immigrazione dobbiamo ricordare che la Francia è molto preparata ad accogliere gli immigrati. Poi naturalmente ci sono tutte le problematiche socio-economiche, soprattutto oggi come oggi. Ma devo dire che sì, per fortuna ci sono anche delle diversità che secondo me sono sempre molto positive. Solamente così un paese può realmente evolvere. Grazie davvero, Francesca. Una curiosità, qui almeno sui giornali italiani si legge di una Francia depressa per la nazionale di calcio. Confermi? Ma un po', diciamo che comunque i giornali francesi erano molto pessimisti, un po' come quelli italiani, che speriamo di arrivare agli ottavi, ecco, lo stesso era per la Francia. Va bene, insomma, quindi se ne erano già fatti una ragione prima, esatto, forse della partenza. Grazie davvero, Francesca, e complimenti per il tuo e per il vostro lavoro. Ciao e buon sabato. Ciao, anche a te. Europost-it. Fare un'esperienza di lavoro a Parigi e lavorando come giornalista. Non è un sogno, ma una possibilità concreta. La offre la rivista europea Caffè Babel, che sta cercando un giovane aspirante giornalista italiano che sappia parlare francese e inglese e che abbia voglia di occuparsi della versione italiana di questa interessante rivista, fatta da giovanissimi redattori europei. Tutte le informazioni per candidarsi sono nella home page del sito caffebabel.it. L'altra Europa. ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa. Allora, vi avevamo anticipato che saremmo andati in Estonia. Aspettiamo i vostri messaggi, se avete curiosità relative a questa nazione, via sms al 349-238-6666, oppure potete scriverci anche via email l'altraeuropa@radio24.it. Ma perché oggi abbiamo scelto l'Estonia? Questa è la risposta. Che non arriva la risposta, ma adesso... Si tratta di una prima volta e anche molto attesa. In Estonia si disputa il campionato nazionale di caccia alla zanzara. Qui da noi ce ne sono moltissime, conferma il responsabile della manifestazione, Trinu Ackerman. È per questo che abbiamo deciso di organizzare il torneo. 37 i partecipanti, divisi in squadre di massimo 3 giocatori, ai quali è stata assegnata una porzione di 3 metri quadrati di un campo in erba. Vince chi raccoglie il maggior numero di zanzare, nel regolamento non è specificato se vive o morte, nell'arco di 10 minuti. Il segreto per farne avvicinare tante e cercare di sudare un po', svela una concorrente. Il vincitore, Rauno Luksepp, ne ha catturate 38, non senza conseguenze. Le punture sul suo corpo, infatti, erano decine. «Ora sto bene», dice contento. Per lui, un viaggio premio sul grande lago Peipus, al confine con la Russia. Che dire, una nazione dove si organizza il campionato di caccia alla zanzara deve per forza essere una nazione interessante, quindi abbiamo voluto approfondire un po' questa Estonia e abbiamo convocato la segretaria dell'ambasciata d'Estonia a Roma. Diamo il benvenuto a Piret Juhani. Ciao Piret, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, come stai? Tutto a posto, bene. Tu come te la cavi con le zanzare? Abbastanza bene, in questo momento sono contenta di essere in Italia, che sembra che ci sono meno zanzare rispetto a Estonia. Ah, ma scusa, è davvero un problema nazionale in Estonia quello delle zanzare? Sembra che quest'anno ci siano particolarmente tanti, quindi per quella anche questa idea spiritosa delle organizzazioni di questo campionato. Che voi conoscevate o l'avete scoperto anche voi leggendo il giornale? Noi per esempio l'estratto l'abbiamo rubato da Cattaweb. Sinceramente l'ho letto anche io sul giornale ora. Adesso non è che insomma che la segretaria dell'ambasciata d'Estonia possa proprio sapere tutto, giusto? E... poi è per prima volta. È proprio una prima volta, quindi sì. Piret, tu vivi in Italia da quanto? Io vivo in Italia quasi da 10 anni. Ma torni spesso? Diciamo più o meno. Sì, torno mediamente 1-2 volte all'anno. Oh, ok, ma com'è questa Estonia? Allora, ricordiamo che è una nazione molto piccola, sono tipo 1.400.000 abitanti, se non erro, ed è la nazione più a nord degli stati baltici. Fa freddo quindi? Diciamo, in Estonia ci sono 4 stagioni, tutti ben marcate, come devono essere. Sì. L'inverno caldo, freddo, l'estate caldo, poi primavera, autunno. Sì, proprio come nei libri, insomma, quando leggi le 4 stagioni vengono raccontate così. Esattamente. Perfetto. Ed è una nazione molto giovane, molto viva. Molto giovane, viva, anche molto moderna. Infatti leggevo che per esempio è la prima nazione dove si può votare via internet, ma non solo, dal 2011 si potrà votare anche via sms, confermi? Sì, praticamente le ultime elezioni sia parlamentari che amministrativi davano la possibilità di votare via internet collegando la propria carta d'identità. Sì. Tramite un lettore speciale che ognuno può avere e dare il proprio voto. Esperimento riuscito? C'è stato un aumento della partecipazione? Esperimento riuscito e molto sicuramente viene anche ripetuto alle prossime elezioni. Appunto, e si potrà votare anche via tramite cellulare, ho letto, non so se è vero o se è stata solo una proposta. Questa 100% non posso confermare. Ok, non confermiamo allora, non è un problema. E mi fanno segno che Skype è nato in Estonia, confermi? Sì, esattamente, diciamo che l'Estonia è la culla di Skype. Ma dai, ma perché insomma, l'informatica ha preso piede o è un caso che ci sia stata questa creazione? Diciamo, Estonia ha preso questa direzione verso la modernizzazione e quindi anche il fatto di poter votare tramite internet, anche presentare la dichiarazione di redditi sì. tramite internet, che si può impegnare 10 minuti, 15 minuti. Quindi insomma ha velocizzato tutto. Gennaio 2011 sì. entrerete anche nell'euro, tu sei già allenata con gli euro perché insomma in Italia ovviamente usi gli euro, sì. c'è attesa per questo cambio moneta o c'è indifferenza? Sicuramente c'è attesa, però ovviamente anche tanta paura. Certo, perché insomma anche le notizie che vengono dal resto d'Europa, cioè, immagino anche il timore nella quotidianità, perché sono comunque mesi di confusione quando c'è il cambio della moneta, ovviamente. Sì, ma nello stesso tempo anche molto entusiasmo, perché certo, diciamo si entra, diventerà molto più facile anche comparare i prezzi con altri paesi europei. Ascolta, ma i giovani europei, tra l'altro nel 2010 sarà la capitale europea della cultura Tallinn, quindi vuol dire sì, proprio... Sì, 2011, sì. Farete attività anche voi da Roma? Immagino di sì. Diciamo, in realtà a Tallinn sì. L'evento è già iniziato con l'attesa di Tallinn 2011, la capitale europea della cultura. E quindi ogni settimana ci sarà un evento culturale, diciamo, evidenziato. Okay. Saranno 52 sorprese e idee, aspettando Tallinn 2011. Insomma, che anche questa capitale europea della cultura la racconteremo sicuramente con l'altra Europa. Solitamente i giovani sono un po' lo specchio anche della vitalità di una nazione. E i giovani estoni vogliono andare via dall'Estonia o c'è la volontà di rimanere a lavorare, a vivere nel proprio paese? Credo che c'è la voglia di fare un'esperienza all'estero, andare a studiare e poi ritornare. Ok, quindi c'è proprio la voglia di conoscere, di scoprire. Conoscere poi... il mondo, scoprire nuove idee, nuove altre nazioni. Un'altra domanda, ecco, ma cosa fa l'ambasciatore d'Estonia a Roma? Fa il suo lavoro. Sì, ma c'è un lavoro noioso. Cioè, tanto adesso ci sta ascoltando, che tu sappia? Spero di sì. Speri di sì, ok. Ed è un lavoro stressante quello dell'ambasciatore d'Estonia? Sicuramente non è facile. Anche perché all'ambasciata siamo poche persone, quindi l'ambasciatore ha tanto lavoro. Ok, ma e tu lo accompagni anche alle feste mondane, cioè il ruolo della segretaria ti impone anche di andare appunto a... No, il ruolo della segretaria è tenere in ordine l'ufficio. Quindi solo doveri e pochi piaceri, insomma. Beh, però insomma, no, c'è di tutto. Cosa ti manca prevalentemente dell'Estonia? Ora in questo periodo mi mancano le notti bianche. In che senso? Cioè le notti, la luce, dici, della... La luce di giorno, diciamo, quasi 20 ore al giorno. In un effetti. Po' meno. In effetti. E ma... ora siamo alla soglia di Festa San Giovanni, che per gli estoni è molto importante. Ah sì? È una festa... Sì, per te c'è la notte fra 23 e 24 giugno. Sì. Con grandi feste e falò. Ah, quindi insomma è una festa, una sorta di festa nazionale. C'è l'usanza di fare i falò in onore di San sì, Giovanni. Sì, sì. Ho capito. All'onore della luce. In onore della luce, perché è appunto una delle notti più lunghe, più luminose. Un'ultima domanda. I romani sanno tutto dell'Estonia? C'è qualcosa che ti chiedono di particolare quando hanno possibilità di farlo? Sanno dov'è, per esempio? Non sempre, però sempre di più. Ok, quindi insomma... E farò di tutto per per aiutarli a capire. Eh sì, insomma, questo fa parte anche del ruolo di un'ambasciata, giustamente. Grazie davvero, Piret, per essere stata con noi, sei stata simpaticissima. E già sappiamo che l'anno prossimo parteciperai anche tu, vero, al campionato di caccia alle zanzare? Spero di no. Spero per la mia pelle. Grazie davvero. Salutaci l'ambasciatore col quale poi parleremo in una delle prossime puntate. Grazie, ciao, buon sabato. Ciao ciao. Europostit. Tallinn, capitale della cultura ma anche del gioco. Proprio nella capitale estone partirà infatti l'European Poker Tour, il circuito europeo di poker sportivo, giunto già alla sua 7ª stagione. Appuntamento dunque a Tallinn dall'11 al 16 agosto, per proseguire poi nel resto d'Europa, da Londra, Praga, Barcellona, Sanremo, per decretare chi sarà il campione europeo di poker del 2010. Tutte le informazioni sul sito europeanpokertour.com. L'altra Europa. L'altra Europa, abbandoniamo l'Estonia ma ci spostiamo di pochissimo e andiamo in Lituania. Insomma, anche il bello di questo lavoro è il bello del poter viaggiare l'Europa, per esempio attraverso internet. Sei lì che cerchi informazioni o curiosità sull'Estonia e casualmente capiti in un blog, un blog anche dal nome strano perché è karimblog.net, e così la tua attenzione viene attratta e vai a vedere che questo blog ha un titolo che è Storie di un italiano in Lituania. Infatti Karim, anche se ha questo nome esotico come lui annuncia nella sua presentazione, ha 30 anni, è di Centallo, siamo in provincia di Cuneo, e abita in Lituania a Klaipėda, se si pronuncerà così, adesso ce lo confermerà Karim, e tiene questo diario quotidiano della sua vita appunto in questa nazione e in Lituania. Ciao Karim, benvenuta all'Altra Europa. Ciao Italia, grazie. Grazie per ospitarmi lì con voi e parlare della Lituania. Tra l'altro la prima domanda che ci ha fatto Karim, insomma, quando l'abbiamo chiamato, è stato: ma come avete fatto a trovare il mio blog? È vero, perché uno scrive e pensa di non essere letto da nessuno, invece. No, sto scherzando Karim. Che le persone che leggono nel mio blog alla fine non sono tantissime, sono le stesse, ma ricevo sempre delle sorprese, delle email con richieste, informazioni strane. Comunque in Italia molta gente non sa neanche dov'è la Lituania. Bravo, esatto. C'è un po' di stato famoso. C'è un po' di confusione, vero, tra queste regioni, tra queste nazioni. Pensa che ho trovato una maglietta qua in Lituania con una scritta in inglese, sì, dove di fronte c'è scritto Where is Lithuania? Dov'è la Lituania? Sulla schiena, nel retro, c'è la mappa che ti fa vedere dov'è. Perché molti pensano in Africa la Lituania, no? Siamo sotto la Svezia, non tanto lontani. Karim, e tu come l'hai trovata, come l'hai incontrata la Lituania? Perché sei lì? Allora, io sono venuto qua nel 2004 a trovare un amico che faceva l'Erasmus qua. Sì. E mi ha detto: vieni qua a trovarmi, ho l'appartamento, ci divertiamo. Un carissimo amico con cui ho fatto vari viaggi anche in Lettonia. Sono arrivato la prima sera, per fortuna o disgraziatamente, dipende dai punti di vista, ho incontrato una ragazza che poi è diventata mia moglie. Ah, quindi ok, un cuore in fuga, diciamo, non un cervello in fuga, ma un cuore in fuga. Un cuore in fuga, mi sono sposato, adesso abbiamo una bambina, un altro bimbo in arrivo, e 6 anni che stiamo insieme. Allora, all'inizio siamo stati in Lituania, poi siamo tornati in Italia, non era come pensavamo, allora adesso sono 2 anni che siamo fissi qua. In Estonia. In Lituania, scusa. A Klaipėda, sulla costa. Secondo me è la città più bella della Lituania. Sì, ok. E nel tuo blog racconti della tua quotidianità. Sono andato un po' a spulciare tra i post e ne ho trovato uno che è molto divertente, che si intitola Caro Lituano. E c'è una sorta di dichiarazione d'amore, una serie di domande che tu fai ai lituani, no? Ma perché quando io cerco di parlare la tua lingua antica, difficile, antipatica e parlata da confronto piemontese, tu non mi ascolti? Perché non saluti? Perché non ti lamenti se le vostre domande scappano, se le vostre donne scappano in cerca di uomini latini? Perché non hai mai una parola gentile per il prossimo? Ma sono davvero così questi lituani? No, è una caricatura. Io, Io devo precisare una cosa. Io ho avuto due esperienze in Lituania. Sì. La prima agli inizi, dove non sapevo la lingua, dove mi trovavo in un ambiente un po' particolare e ho trovato molte difficoltà. Quando sono ritornato, che ho iniziato a parlare la lingua, ho iniziato a capire molto di più come sono i lituani. E dal nostro punto di vista culturale, noi che siamo latini, siamo più amichevoli, più espansivi, all'inizio può sembrare che il lituano sia freddo, in realtà non è proprio così, è una freddezza, ma è un po' dovuta alla loro storia particolare, è un po' dovuta al loro modo di essere, nel senso che, detto proprio terra a terra, se a un lituano non gli sei simpatico, non fa niente per non farlo vedere, okay. Lo fa capire subito. Sì, sì, sì. È un po' disarmante, un po', non lo so, per me ancora adesso, dopo anni, faccio fatica un po' a abituarmi. Ho capito. E ascolta, però hai fotografato bene anche i giovani lituani, l'hai fatto... Attraverso questo video facciamo ascoltare qualche secondo per entrare nel clima e poi ce lo fai vedere tu, ci racconti perché hai scelto questo. Laying on my bed watching TV, scratching my balls, Gaga dances for me. Cute little blonde looking so sexy. Even Angelina doesn't look so sexy. She wants money, but I haven't that much. I'll receive a boner if she'll ever me touch. My English is full, but my soul is Lady Gaga in salsa lituana. Cosa hai trovato navigando in rete, appunto, tra i siti lituani? Ti racconto la storia. Questo video è stato realizzato proprio da pochissimo. Sì. È stato realizzato da due ragazzi lituani che erano negli Stati Uniti e si sono accorti che negli Stati Uniti Lady Gaga è molto famosa. Ok, quindi fenomeno che lì non è ancora arrivato. Una volta tornati negli Stati Uniti hanno fatto un party per divertimento, hanno fatto questa canzone che voi avete mandato in onda, ma il testo è veramente di un... volgarissimo. Se fosse in italiano sarebbe censurato in due minuti. Comunque l'hanno fatto un video che io trovo particolare, a parte la canzone che è bella e divertente, lo trovo particolare perché è girato nelle campagne lituane ed è proprio genuino, cioè le feste, le case, se uno guarda il video vede che in un certo momento, a metà del video, il cantante è seduto e poi vedi che è un bagno fuori come avevamo noi 50 anni fa. Ed è ancora così, molte in campagna, in Lituania c'è gente che ha ancora il bagno nel giardino. Mm-hmm. Ed è particolare perché lì vedi proprio i ragazzi come si divertono con niente, con due bottiglie di vodka, perché qua bevono e... hanno fatto questa cosa particolare che ha un successo. In poco più di una settimana ha avuto più di 100.000 visite, sta continuando a salire e sta diventando un fenomeno. Insomma, quindi al di là del testo, appunto, che è una fotografia, cioè potete vedere, potete entrare nella campagna lituana, ma anche in quelli che sì. Sono un po' i riti di una festa. Sì, quel divertimento lì un po'. Beh, certo, insomma, Karim, in chiusura, intanto noi ti teneremo in archivio, perché tutte le volte che succederà qualcosa in Lituania ti useremo come nostro corrispondente, sappilo. So però che il tuo sito è diventato un po' un punto di riferimento anche per gli italiani che vogliono venire in Lituania, perché c'è anche un po' la leggenda metropolitana che sia facile lì sposarsi, le ragazze sono molto belle e quindi fanno domande a te, cioè ti scrivono e ti chiedono sì, la qualunque. Per esempio? Sono diventato lo stranamore della Lituania, il dottor stranamore. Ricevo delle email che sono disarmanti, gente in lacrime che mi chiede come capire la propria fidanzata, ma a volte gente, italiani che sono venuti qua, che le ragazze lituane sono molto belle e hanno un certo modo di fare, sì. L'italiano non è abituato, quindi sono trovano prede. E successo che a gente che ha conosciuto lituani in chat, che è venuto qua, che mi chiedono: ma si comporta così, mi risponde in un certo modo, non mi manda i messaggi che le mando io, cosa devo fare? L'ultimo che ho ricevuto è un ragazzo che aveva una relazione via chat, perché sì, molti fanno così, e voleva andarla a trovare ma aveva paura di volare, e ha chiesto a me consigli come superare la paura del volo, cosa fare. Io ho detto: fai quello che vuoi. Esatto, mi sembra la risposta migliore. Non lo so, vai in bicicletta, in macchina, come preferisci. Insomma, sì? Questa persona qua mi ha ricontattato dicendo: guarda, io mi sposo, se vuoi venire ti invito al matrimonio. Mai visto in faccia, non mi ricordavo neanche il nome. Fantastico. Diamo il sito www.karimblog.net, storie di un italiano in Lituania. Ciao Karim, grazie davvero, ci risentiremo presto, buon sabato. Finisce qua l'altra Europa, un grazie ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto il programma, ad Anita Panizza in redazione, a Peter Bescapè alla parte tecnica. L'altra Europa @radio24.it per i vostri messaggi, per le vostre email durante la settimana. Ci ritrovate anche nel podcast nel nostro sito www.radio24.it. Ci ritroviamo qua sabato prossimo alle 10 con l'Altra Europa, ma anche lunedì sera dalle 21 alle 24 con La Notte prima degli esami. Adesso il GR e poi il Gastronauta. Ciao!